D'accordo, vi racconterò tutto io. La cosa più importante è che restiate calmi. Non c'è alcuna ragione di allarmarsi. Il nostro capitano ha avuto un malessere. Niente di grave, comunque. Gli altri due piloti, il gatto e la volpe, controllano perfettamente l'aereo. E la fata turchina parla alla radio. La radio è tutta tua, fata turchina. E butta un occhio al quadrante del motore 3, là. Sembra che qualcosa non va. Si sta surriscaldando. Linee d'ombra. Storie dei nuovi vizi capitali. Di Matteo Caccia. Passione. Sul momento io lo interpretai così. Però era uno sguardo affamato, un bello sguardo affamato che mi piaceva come cosa. In coda all'aereo ci siamo solo noi e sospetto che questa volta non sia una casualità. Tira le tende e ci appoggiamo nel nostro anfratto. Storie di sesso ad alta quota e matrimoni in carcere in una puntata tutta dedicata al vizio della lussuria. Perché esiste un club? Non ho mai capito se esiste realmente o è semplicemente una definizione che viene data di quelle persone che, insomma, a un certo punto della loro vita incontrano casualmente qualcuno in aereo oppure col proprio moglie, marito, compagno o compagna, durante un volo si chiudono in un bagno e fanno quello che tutti immaginano che un uomo o una donna facciano, chiusi in un bagno in aereo a 10.000 metri di quota. In realtà ho scoperto che il club non c'è, ma c'è una compagnia aerea che è specializzata in voli erotici, si chiama Flamingo Air. E da 20 anni offre la possibilità di riservare dei posti particolari su alcuni piccoli aerei privati. Nel biglietto ci sono dei baldacchini, cioccolato e champagne. Un volo costa $475, quindi più o meno 450 euro. Nella clientela composta media da coppie dai 35 anni in su. Perché vi raccontiamo questa storia oggi? Perché vi abbiamo fatto sentire un pezzo in apertura di programma dell'aereo più pazzo del mondo, insomma l'avete riconosciuto, in cui a un certo punto c'è qualcosa che non va storto durante il volo e prendono il comando un passeggero che è un ex pilota con dei problemi molto seri e la hostess. Vabbè, insomma, se non conoscete l'aereo pazzo del mondo, guardatelo, perché questa puntata ha due storie che parlano di amore. Da una parte si parla di amore prima puramente spirituale e poi anche che si concretizza, perché sono due coniugi che si sposano con le sbarre in mezzo. Sono una donna e un uomo che si conoscono perché lei è una volontaria di un carcere, lui è un carcerato, è un ergastolano, siamo negli Stati Uniti, si conoscono tramite lettera, si incontrano e si frequentano come ci si può frequentare quando uno dei due di una coppia è in carcere, e poi a un certo punto decidono di sposarsi perché tanto lui non uscirà mai. Hanno deciso di accettare questa situazione, lui rimarrà a vita in carcere, quindi ci sposiamo semplicemente perché è più comodo per avere i permessi. E un giorno invece succede quello che nessuno si aspetta, e cioè che lui riceve la grazia e quindi si trovano davvero a vivere come marito e moglie. La prima storia che vi raccontiamo invece parla di un rapporto che è meno, insomma, è un po' più prosaico, è meno sentimentale, e che avviene casualmente proprio a 10.000 metri di quota, diciamo convenzionalmente. Semplicemente accade durante un volo transoceanico. Ce l'ha raccontato Christian. Christian ci ha dato tutti quanti i dettagli. Quindi, insomma, sono da poco passate le 3 del pomeriggio, diciamo è un programma che racconta storie legate ai vizi capitali. So che siete pronti ad ascoltare questa storia, non c'è nulla di stravolgente, però potrebbe essere che magari, diciamo, c'è un parental control, noi ve lo diamo comunque perché alcuni passaggi possono essere un pochettino espliciti. Detto questo, mettetevi comodi, parliamo di lussuria, benvenuti a Linee d'Ombra. L'autobus si ferma e, come al solito, tutte le persone all'interno si lanciano di corsa verso le scalette, come se l'aereo potesse partire improvvisamente. Io me la prendo con calma, mi godo il caldissimo sole indonesiano sulla pelle abbronzata da 2 settimane fra queste felici isole. Poi, piano piano, una volta defluita la calca, comincio a salire. Mi accoglie una hostess con un completino azzurro cielo, giacca e gonnellino. Leggo i numeri sulle poltrone, sono quasi arrivato al mio posto quando mi incrocio con un'altra hostess. È bella, molto bella. Non quella bellezza prepotente a cui siamo abituati, più delicata, lunghi capelli neri che sembrano profumati. Sono elegantemente raccolti. Sopra al naso, piccolino e all'insù, ci sono due occhi scuri, curiosi, dal taglio orientale. Il viso è equilibrato, completato da labbra carnose a forma di cuore. La camicia mi fa immaginare un seno sodo, più grande della media. I nostri sguardi si incrociano, per un attimo c'è uno scambio di promesse. Promesse di piaceri, promesse di baci, di graffi. Ci sorridiamo e mi sembra che quando passiamo vicini in quel stretto corridoio, lei non si impegni più di tanto a discostarsi. Ma probabilmente mi sto ingannando, penso subito dopo. Ogni volta che passa questa ragazza lei mi sorride, ma più del sorriso sono gli occhi a prendermi. Inoltre in questa passerella posso ammirare il lato che prima mi mancava, ed è un sedere splendido, marmoreo, le gambe sono toniche. Dopo un po' di passaggi, lei si avvicina e mi lascia carta e penna. Scrivo email, numero di telefono e nome. Lei, al secondo passaggio, lo riprende. No, in realtà ho pensato che sarebbe finito tutto lì, così al massimo con uno scambio di immagini, qualcosa di divertente, ma niente di, cioè non, niente di più, appunto una cosa telematica, anche perché sarei arrivato in aeroporto e ripartito immediatamente, perciò non pensavo a niente di che, niente di così travolgente come poi è stato. Tra me e me penso che probabilmente al massimo ci scambieremo qualche foto provocante. Prendo come pretesto la sete e vado verso la coda dell'aereo, dove la trovo impegnata con due colleghe a sistemare la cena. Ci accostiamo, chiacchieriamo del più e del meno, ma di fondo c'è sempre quella tensione sessuale che freme. Non so perché né per come, ma ad un certo punto mi accorgo che siamo soli, in penombra. Sul lato sinistro dell'aereo, in una specie di nicchia che forse funziona da ripostiglio o da seduta per il personale di bordo. Il suo bacio è caldo, ha delle labbra morbide, un odore fresco, speziato. Affonda la lingua nella mia bocca in maniera decisa ma discreta, e io ricambio con tutto il sentimento possibile. L'ambiente viene illuminato improvvisamente da una spia. Lei si scosta piano e mi dice che deve andare. Torna dopo, mi dice. Certo che tornerò, rispondo. Arrivo al posto, penso all'accaduto con euforia, chiaramente. Dopo circa mezz'ora, passami facendo con la testa di seguirla. Io, in preda ai sogni erotici, avevo preso un preservativo dallo zaino senza la minima speranza di utilizzarlo. Sì, lo so, non proprio poetico. Arriviamo in coda all'aereo, ci siamo solo noi, e sospetto che questa volta non sia una casualità. Tira le tende e ci appoggiamo nel nostro anfratto. Riparte un bacio desideroso, con le mani bramose mi bacia sul collo. Comincio a perdere lucidità. La voglio, ora. Accarezzo sulla gonna le sue parti gentili. Non resiste, anzi mi invita, col corpo a non indugiare, spingendosi contro la mia mano. Alzo la gonna e, combattendo con delle calze molto strette, riesco ad arrivare fino a lì. Le dico che vorrei posarci le mie labbra. Non risponde, ma si gira appoggiando la schiena contro di me e strofinandosi lentamente nel modo giusto. Visto che le mie proprietà di linguaggio stanno ormai andando in malora, tiro fuori dalla tasca il preservativo e glielo mostro. Sorride e annuisce. I'm so in love with you. Whatever you want to do is all right with me. Spend my life with you. Let me say it seems, baby, since we've been together, ooh, loving you forever is what I need. Let me be the one you come. Be untrue, oh baby, yeah. Veloce come un fulmine, abbasso le sue calze e i miei pantaloni, mi copro e, baciandole il collo, mi appoggio a lei. Sono un po' scomodo, è molto più bassa di me, perciò sto con le gambe piegate e nel frattempo cerco di sollevarla un po'. Le sue calze non aiutano, i miei pantaloni nemmeno. Con un po' di forza e con il suo aiuto, sono dentro. Mi sembra tutto surreale. Ci guardo e la vedo, lei è perfetta, mi avvolge, al buio, in volo, nei cieli indonesiani, con una ragazza con cui ho parlato giusto 30 minuti. Mi pare che stiamo facendo un enorme casino, ansimando, gemendo, ma probabilmente non è così. Sarà stata la situazione paradossale, ma poco dopo, molto poco, moltissimo poco, sento il piacere arrivare. Lei, consapevole, si muove ancora un po', rallentando. Mi ritiro con calma, ma ci rivestiamo velocemente, il tutto sarà durato 5 minuti. Un altro bacio, mi dice se voglio fermarmi a Giacarta, con lei, e partire per Roma il giorno dopo, invece che fra qualche ora. Certo, le dico. Passa davanti ai bagni, li sblocca, li aveva chiusi per far vedere che erano impegnati. Io entro in uno di questi e mi ricompongo e penso, follia, è stata una bellissima follia. Già dal primo momento, dal primo approccio che abbiamo avuto, che è stato il bacio, avevo paura di essere scoperto, chiaramente. A me già quello era una cosa strana. Poi andando avanti è aumentata la tensione, però forse anche questo faceva parte del gioco eccitante, del momento eccitante. Il mio compagno di viaggio dorme, non si è accorto di niente se non dello scambio di sguardi e della chiacchierata. Atterrati a Giacarta mi vado ad informare se posso posticipare il mio volo e sì, c'è questa possibilità. La chiamo e glielo dico, si può fare. A questo punto avviso il mio amico che chiaramente mi chiede subito se posso chiedere a lei se ha un'amica, ma non lo farò. Sei sposato, gli dico, e tra me e me penso sei anche vecchio e poco attraente. Lui insiste finché io non la chiamo e le propongo la cosa, ma so già che nessuna persona sana di mente farebbe una cosa del genere e difatti lei mi dice di no. Aggiungendo il tuo amico è vecchio, brutto. Da solo non vuole farmi rimanere. Accampa pessime scuse, anche poco credibili. Passo quindi il volo di ritorno a pensare ad una mancata notte a Giacarta con l'umidità indonesiana che avrebbe fatto scivolare i nostri corpi. Con lei ci siamo sentiti un paio di volte su Skype, ma chiaramente ci siamo persi quasi subito. Ho raccontato questa storia solo a mio cugino e a sua moglie. What a beautiful face I have found in this place that is circling all around the sun. What a beautiful dream that could flash on the screen in a blink of an eye and be gone from me. Soft and sweet, let me hold it close and keep it here with me. And one day we will die and our ashes will fly from the aeroplane over the sea. But for now we are young, let us lay in the sun and count every beautiful thing we can see. Love to be in the arms of all I'm keeping here with me. We'll be right back. puntata di oggi è dedicata al vizio della lussuria. Ve lo avevo raccontato in apertura di puntata che il racconto di Christian era abbastanza esplicito nei dettagli, e noi l'abbiamo lasciato così com'era, proprio perché è un racconto molto semplice. Di fatto è un incontro casuale che dura davvero il tempo di un volo, e purtroppo per Christian si chiude lì. E quindi, per come ci è arrivato, e come sempre facciamo quando ci mandate le vostre storie, linee d'ombra @radio24.it, lo prendiamo e ve lo restituiamo. Pronto, ciao Christian, buongiorno. Ciao Matteo, buongiorno. Christian, perché hai raccontato questa storia solo a tuo cugino e a sua moglie? Questa cosa mi ha fatto molto ridere. Non lo so, sinceramente, è un episodio che mi è accaduto, che mi ha meravigliato e sconvolto, ma l'ho raccontato solo a lui, a loro due. Ma perché hai un rapporto particolare con lui, o c'è stata un'occasione? Sì, ah, ok. Sì. No, vabbè, un rapporto particolare con loro due, e tra l'altro è stranamente è un episodio a cui non penso spesso, ascoltando il tuo programma. Poi chiaramente su una puntata sulla lussuria mi è rivenuto in mente, l'ho rivissuto proprio e ho deciso di scriverti. Ma tra l'altro, scusami, non sei evidentemente, diciamo, un tipico maschio, perché se penso anche solo tra le mie conoscenze di questi ultimi 20 anni di vita, una cosa così ha voglia, ma proprio cene e cene, a raccontare una cosa di questo tipo, magari adducendo qualche tipo, facendo vedere delle foto finte, l'ho ritrovata su Facebook, ecco. No, questa è un'altra cosa. Non l'hai più cercata, anche perché è successo una decina d'anni fa, giusto? È successo una decina d'anni fa? No, ma in realtà noi ci siamo continuati a sentire tramite Skype per un po' di tempo. Ok. Poi chiaramente è una cosa che è finita lì. Non... Di dove era lei esattamente? Lei era di Giacarta. Ok, ed era, faceva la hostess da parecchio tempo. Faceva la hostess, esatto, sì. Adesso i dettagli non lo ricordo, sinceramente. Era più grande di te? No. Secondo me eravamo più o meno la stessa età, ma non è che abbiamo chiacchierato così tanto. Cioè, questo si è capito, almeno... questo devo dire che più o meno si è capito, insomma è stato tutto quanto abbastanza veloce. Lei però, tu hai capito che lei aveva, come dire, avvisato l'altra parte dell'equipaggio a un certo punto di tenersi lontano da quell'anfratto, oppure è stato... Sì, secondo me c'è stata un po' di complicità da parte delle altre ragazze. Sì, perché appunto, ecco, non è arrivato nessuno, è vero che... Sono stato, diciamo che è stato tutto abbastanza rapido. sì, anche questo. Sei stato molto onesto nel tuo racconto. Assolutamente, non potrei dire una bugia. Lo abbiamo molto apprezzato. Senti, l'amico esattamente, non ho capito se viaggiava con te, ha fatto il viaggio con te per 2 settimane, oppure era un vicino di posto? No, era una persona con cui sono partito dall'Italia. Ah, ok. Perciò era, diciamo, un amico con cui sono partito dall'Italia e siamo stati insieme per quelle 2 o 3 settimane. E non ti ha mollato, quindi quella notte non ti ha lasciato a Giacarta, di fatto, non ti ha permesso. Ecco, quello è uno dei pochi rimpianti che ho, nel senso che a prescindere dal rapporto poi con la ragazza o meno, sarebbe stata un'esperienza quantomeno divertente passare una notte in più a Giacarta con lei, ma anche per lo spaccato, per vivere chiaro, giorni lì, invece niente, sei tornato. Mi è stato impedito. Poi non mi è stato impedito, lui si era proposto di accompagnarmi, certo. Ho rifiutato. Sei tornato a Roma, sei romano, giusto Christian? Esatto. Che cosa fai nella vita adesso? Ho un ristorante. Di italiano? Sì. Vabbè, di solito che è un ristorante prova a dire sì, si chiama così, si trova così. Ma così. Guarda, io sono molto discreto. Dimmi come si chiama il ristorante, dove si trova a Roma? Borgo del Cacchione, si trova a Grotta Ferrata. Ok, Borgo del, perdonami? Cacchione, è un vitigno. Ah, ok, perfetto, perdonami, io credevo fosse un modo di dire romano, invece sono talmente ignorante. In realtà è anche un modo di dire romano. Ok, Christian, ti ringrazio davvero molto per la tua delicatezza, il tuo garbo e per la tua storia. In bocca al lupo per tutto. Grazie a te, Matteo. A presto, ciao, grazie mille. E ora sentiamo le borse in diretta, poi torniamo a raccontare qui a Linee d'Ombra. Linee d'Ombra. Storie dei nuovi vizi capitali. La puntata è dedicata alla lussuria, ma poi noi non stiamo stretti su quell'unico vizio lì. Cerchiamo di usare quel pertugio per entrare, infilarcisi e poi allargare le storie che vi raccontiamo. Quindi ci siamo infilati da quel pertugio che ci ha offerto la storia di voli oceanici, transoceanici di Christian e di un rapporto sessuale consumato al volo, letteralmente, su quell'aereo, per andare da un'altra parte, per parlare di rapporti sentimentali che poi però diventano anche rapporti veramente fisici, anche se i due protagonisti non lo immaginavano, perché la seconda storia che vi stiamo per raccontare è quella di un matrimonio che veramente sembrava destinato a non consumarsi mai, visto che i due sposi si erano conosciuti mentre lui scontava un ergastolo in carcere. Poi però le cose sono andate molto diversamente. Stati con noi. I matrimoni tra un carcerato e una persona libera non sono così insoliti. Accadono. E come si accadono? Questa storia racconta di un uomo e una donna che lo hanno fatto. Michael Jewell stava scontando un ergastolo per omicidio in Texas. Lei, Joan Covici, era una vedova che viveva a Dallas e che faceva la volontaria presso l'Unione Americana per le Libertà Civili. Quando anni fa si sono sposati, avendo tra loro le sbarre del carcere, non avevano pensato che Michael sarebbe potuto uscire. E allora andava bene così. Poi però è accaduto e i due si sono ritrovati a vivere insieme inaspettatamente. A quel punto abbiamo fatto un patto, racconta Joan. Ci avremmo provato per 2 anni. Una volta libero, ci avremmo provato per 2 anni. Dopo 2 anni, se non fossimo stati felici, ci saremmo separati. Quindi è un contratto vero e proprio il loro, scritto su un documento. Joan ne tiene una copia nel cassetto della sua scrivania. Il contratto spiega esplicitamente tutte quelle cose molto pratiche che di solito non vengono dette in una relazione. Ad esempio, Joan dichiara che fornirà a Michael un posto dove vivere e soldi per cibo e vestiti. Michael, da parte sua, accetta di prendersi cura di Joan, di essere il suo compagno. E poi il contratto è una sorta di proiezione esterna della quotidianità di una coppia raccontata nei dettagli più specifici di una vita insieme. È incredibilmente preciso e specifico. Questo è un elenco di alcuni dei doveri di Michael, ad esempio. Lavori domestici, partecipazione al 50% in cucina, nelle pulizie, nella preparazione del letto e delle piccole riparazioni domestiche. Lavori esterni, manutenzione del giardino, portare a spasso il cane, fare la spesa. Questo invece è l'elenco dei doveri di lei, di Joan. Faccende domestiche, partecipazione al 50% in cucina, pulizie, preparazione del letto, pulizia biancheria da letto e lavanderia. Senza la prigione, Michael e John non si sarebbero mai realmente incontrati. Lei ha 16 anni più di lui, viene da un mondo completamente diverso. Michael non ha mai fatto molto altro oltre al crimine. Quando aveva circa 7 anni, suo padre gli fece rubare un paio di scarpe. Le cose da lì sono andate sempre peggio. Ha rubato ovunque. Drogherie, cassette di sicurezza, banche, uffici postali. Ha sempre fatto dentro e fuori prigione. Poi, nel 1970, durante una rapina, ha ucciso un uomo. Venne catturato e condannato, il che in Texas significa finire nel braccio della morte. Aveva 23 anni. La vita di John, invece, nei suoi primi 20 anni, era lontana, anni luce, dal Texas rurale dove è cresciuto Michael. Viveva a Cambridge, nel Massachusetts. Era sposata con un dottorando in letteratura inglese ad Harvard di nome Pascal Covici. Il padre di Pascal era l'editore e amico intimo di John Steinbeck, il che spesso portava John a New York a partecipare a cene e feste piene di personaggi del mondo dell'editoria e dello spettacolo. Steinbeck, appunto, Saul Bellow, Arthur Miller e quindi sua moglie, che all'epoca era Marilyn Monroe. Il matrimonio di John con Pascal era piuttosto tipico di quell'epoca. Lui, il capofamiglia, lavorava, lei era la moglie ed era casalinga. John ha cresciuto 2 bambini, alla fine è diventato un insegnante. Molti anni dopo, quando John aveva 66 anni, Pascal morì. Dopo la sua morte, lei ha iniziato il volontariato all'Unione Americana per le Libertà Civili. Si occupava della posta della prigione e ha iniziato a scrivere a diversi detenuti per scoprire le condizioni del sistema carcerario del Texas. Michael aveva 52 anni, di cui quasi 30 passati in carcere. scrisse una lettera e quella lettera la aprì Joan. You say you like the wind blowing through your hair. Come on, roll with me till the sun goes down. Texas sun. Say you wanna hit the highway while the engine roars. Well, come on, roll with me till the sun goes down. Cari amici, diceva la lettera di Michael, sono un prigioniero dell'unità Eastham del sistema carcerario del Texas. Sono arrivato in prigione con la pena di morte nel 1970. Da allora sono stato per anni nel braccio della morte. Non c'era niente di speciale nella lettera di Michael. Chiedeva di essere coinvolto nei movimenti contro la pena di morte. La sua condanna a morte era stata commutata in ergastolo. In prigione era diventato un attivista, fortemente coinvolto nelle questioni relative alla riforma carceraria. John lesse la sua lettera e rispose diligentemente. Michael scrisse di nuovo e John rispose ancora e così via. In questo modo Michael e John si sono scritti null'altro quasi ogni giorno per 10 anni. Michael era un autodidatta nella scrittura, ma le sue lettere mostravano quanto avesse letto, compresa la maggior parte dei libri proprio di John Steinbeck. Ogni domenica pomeriggio, John guidava ore per andare a visitare Michael in prigione. Dormiva sempre nello stesso elegante bed and breakfast vicino alla prigione ed era diventata amica delle persone che lo gestivano. E poi, il resto della settimana, tornava alla sua vita. A modo suo, era un periodo romantico. Michael e John si abbracciavano e si baciavano con discrezione durante le loro visite. Tutto avveniva in una sala per le visite che era pubblica. Non c'era nulla di coniugale in quello che stava accadendo. I limiti del loro tempo insieme erano chiari e a John andava bene così. Nel 2005 John e Michael si sono sposati. Più che con il romanticismo, le nozze avevano a che fare con il non perdere i loro diritti di visita. Dal momento che la prigione aveva negato loro alcune visite perché troppo assidue e ingiustificate da legami familiari. Hanno vissuto in questo modo e felicemente per 5 anni. Poi, un giorno, nel giugno del 2010, Michael è stato convocato dalle autorità carcerarie. È entrato in una stanza e un funzionario gli ha detto: «Ho qui un regalo per te». Gli ha consegnato un foglio di carta. Michael ha iniziato a leggerlo e ha scoperto che aveva ottenuto la libertà condizionata. Michael aveva fatto richiesta un mese prima e gli era stata negata. Di fronte a quella notizia rimase molto confuso, quasi spaventato. «È stata una sorpresa per entrambi», racconta John. Lui era terrorizzato al pensiero di uscire. Non era preparato. Nessuno dei due lo era. «Io ero felice di averlo a casa, anche se sapevo che sarebbe stato difficile e che le probabilità che la relazione durasse erano veramente basse, ma accettai». Il 21 di agosto del 2010, dopo 40 anni di carcere e 10 anni insieme a John, Michael è diventato un uomo libero. Quel giorno John lo aspettava in un'auto parcheggiata ai cancelli della prigione. Lei era così nervosa ed eccitata che non aveva dormito la sera prima. Aveva prenotato una stanza in un hotel a 5 stelle. Michael salì in auto, non la baciò, non la toccò minimamente, le disse solo: «Andiamo». Era euforico, racconta oggi, ma totalmente disorientato. Sono passati 10 anni da quando Michael è uscito. I due hanno superato il periodo di prova di 2 anni, quello segnato nel contratto. Michael dice che lascia continuamente la porta dell'ingresso aperta, è abitudine che aveva preso quando è uscito dal carcere. Ma soprattutto lascia la sua roba in giro dappertutto. John dice che è come avere nuovamente un adolescente in casa. Però hanno imparato ad affrontare le questioni legate alla vita quotidiana. Sì, le loro vite oggi sono intrecciate. I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain. The only thing that's real. The needle tears a hole. The old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all. Questa è una storia bellissima che abbiamo ascoltato un paio di anni fa in uno di quei programmi che amiamo moltissimo, di storytelling, di narrazione o di giornalismo narrativo americano, che si chiama This American Life. Era raccontato dalla viva voce di entrambi, di Michael e di John. Potete riascoltarlo ovviamente sul nostro podcast. Ora sentiamo Le strade in diretta e poi torniamo qui e continuiamo a parlare in qualche modo di relazioni e di sentimenti legati al carcere. Linee d'ombra. Storie dei nuovi vizi capitali. Vi abbiamo appena raccontato una storia d'amore che è una storia diversa dalle altre, perché è una storia che nasce in un carcere, o meglio, nasce con un carcere in mezzo, nel senso che il protagonista, il maschio, è l'uomo, insomma, della storia, è in carcere per un ergastolo e conosce questa donna che è una volontaria e lavora con lui, lavora insomma con parte dei detenuti, si innamorano, si sposano quando lei è fuori e lui è dentro, e poi a un certo punto lui riceve la grazia e quindi i due decidono che ci provano a vivere insieme, non l'hanno mai fatto. Si conoscono da 10 anni, sono sposati da 5 e dicono ci diamo 2 anni, vediamo cosa succede, e quello che succede è che riescono a stare insieme. Noi, per cercare di capire se queste dinamiche accadono, quanto accadono, come si vive l'emotività, i sentimenti e l'amore all'interno di un carcere, vogliamo sentire una persona che lavora con i detenuti da diversi anni. Lei è la direttrice di Ristretti Orizzonti ed è Ornella Favero. Pronto? Buongiorno Ornella. Buongiorno. Grazie mille per essere qui innanzitutto. Ristretti Orizzonti, Ornella, è una redazione, giusto? È un giornale fatto dai detenuti del carcere di Padova, dico bene? Prevalentemente di Padova, ma collaborano anche da altre parti. Per esempio abbiamo una piccola redazione a Parma, a Genova. Comunque Padova è il centro perché esiste da 23 anni, quindi è consolidata in un lavoro enorme. Ornella, quindi lei sono 23 anni che fa dentro e fuori, sì, dal carcere, giusto? Esattamente. Esattamente. Voi nel vostro magazine, insomma, nel vostro giornale, che argomenti trattate? Di cosa scrivono i detenuti? Guarda, intanto il giornale è fatto alcune cose anche per i detenuti, pratiche, però in realtà è un ponte con la società esterna, quindi anche le persone detenute che scrivono, però scrivono sempre con occhi attenti al mondo fuori, a far capire, a far conoscere la realtà, non tanto a parlare di quanto male si vive in carcere, mm-hmm, o cose del genere. Quindi e proprio il tema degli affetti è uno dei temi più cari, perché forse è quello con cui si può arrivare anche a una società così incattivita, spiegando le vite delle persone, le famiglie coinvolte, il fatto che potrebbe succedere anche a una famiglia delle nostre, diciamo, una persona. Certo. Io ricordo sempre, se posso aggiungere una madre che una volta mi ha detto una cosa che mi ha sconvolto, io ho detto, ho sempre pensato di poter anche perdere un figlio, che mio figlio morisse perché è un incidente, cosa del genere, non avrei mai messo in conto la possibilità che finisse in carcere, quindi il figlio in carcere è un lutto peggiore quasi della morte per un genitore, quindi noi puntiamo molto su questi temi. Ornella, invece l'affettività marito e moglie, compagni, compagne, come viene vissuta? Innanzitutto è possibile viverla all'interno di un carcere? È possibile che si sviluppi anche un amore tra persone che non si conoscevano prima e si incontrano in un carcere, non per forza entrambi da detenuti, immagino, perché diciamo i generi sono separati, ma che cosa ti è capitato di vedere in questi anni? Ma guarda, io tra l'altro ricordo che in questo tema i primi numeri, poi i primissimi numeri, i numeri zero di Ristretti partivano da questo e partivano dalla necessità anche che ci fossero i colloqui intimi, che ci sono in tantissimi paesi, senza nessuna morbosità. Quando se ne è parlato, se ne parla in Italia, viene fuori la, vengono fuori tutti gli articoli e Zenuti Valnocelle a luci rosse, no? Cioè questa è una cosa. Ma su queste storie che tu dici, purtroppo ne ho viste pochissime e anche molto osteggiate. Perché? Perché c'è quasi, no, adesso sembra forse esagerato, ma c'è paura dell'amore, del trattare umanamente le persone e quindi di accettare che le persone possano innamorarsi. Tu hai raccontato la storia di un, scusate, del turno. Sì, diamocelo. Ecco, meglio così, ti ringrazio. Di una detenuta, una volontaria. Sono storie molto rare e molto molto osteggiate. Io ho dovuto, come dire, da responsabile del volontariato combattere anche su questo, perché se vogliamo, come si dice, che la vita dentro assomigli il più possibile alla vita fuori, perché poi le persone non è che devono essere uscire bravi detenuti, devono uscire cittadini, quindi certo. Però questa cosa è scritta sulla carta, è scritta in Europa, le regole europee, ma in realtà nelle carceri italiana è praticata pochissimo, quindi è visto con sospetto. Invece, guarda, qualsiasi relazione dovrebbe far capire che se una persona esce e ha delle relazioni è un po' già mezza salva, diciamo, perché certo, è fondamentale. Certo, perché gli rapporti invece sociali ci rendono delle persone, degli esseri. Sì, non basta umani. Il lavoro simile a questo, infatti. Chiarissimo. Sono proprio i rapporti sociali, i rapporti che riesce a intrecciare. Io dico sempre che il destino delle persone fuori, la possibilità di che siano recuperate o che invece tornino alla recidiva, è proprio tantissimo legato ai rapporti che riescono a costruirsi. E quindi invece che essere osteggiati dovrebbero essere favoriti, questo mi sembra chiarissimo. Se avete voglia di sapere qualcosa di più, andate online e trovate ristretti.org e trovate tutto il lavoro di Ristretti Orizzonti. Grazie mille Ornella Favero, grazie Ornella. Grazie. A presto, a buona giornata. Ciao ciao. Andiamo a chiudere anche questa settimana, anche questa puntata, con la storia a cui ormai siamo molto molto affezionati, di Giorgio Bazzega, figlio di Sergio Bazzega, quindi vittima delle Brigate Rosse. Giorgio ha covato una forma di ira profondissima che è quasi sfociata, fortunatamente si è fermato a tanto così, in un desiderio di vendetta, e poi la sua vita ha preso la piega migliore che potesse prendere, cioè ha incontrato delle persone che lo hanno coinvolto in una serie di incontri che ha a che fare con la giustizia riparativa. Facciamoci raccontare da lui, che ne sa molto meglio. È stato Manlio Milani a propormi da subito di entrare nel gruppo dell'incontro sui temi della giustizia riparativa tra vittime del terrorismo ed ex terroristi della lotta armata. Ho iniziato a star bene dopo il percorso. È stato un percorso difficilissimo. Perché la giustizia riparativa, cioè butti la tua vita lì in mezzo, ti rifai delle domande che hai dentro e che non hai mai avuto il coraggio di fare, ma domande anche che fai fatica a fare, perché sono domande pesanti anche per chi le riceve. cioè sono robe veramente difficili, fanno soffrire, non è facile. La giustizia riparativa non è un finirla a tarallucce vino, come ho sentito definire, e invece tirare fuori tutto quello che sia dentro, in un ambiente in cui è possibile tirarlo fuori essendo protetti, essendo un ambiente comunque dialogante, essendo un ambiente non conflittuale, un ambiente dove si vogliono risolvere questi conflitti, ed essendo un ambiente che permette a te, che hai tutta questa roba dentro, di tirarla fuori, di stare anche meglio dopo, e permette all'altro, una volta che si trova a contatto, che tocca con mano il dolore che ha causato, a essere responsabilizzato, che è la parola chiave del recupero di chi ha commesso comunque un reato. Quando sono entrato mi sono trovato davanti a un sacco di ex protagonisti della lotta armata e non mi sembrava vero. C'erano Franco Bonisoli, Mario Ferrandi, Alberto Franceschini e altri che non posso nominare. Io ho fatto molta fatica a tenermi quello che volevo dire e infatti non ci sono riuscito. C'erano altri, tra cui uno, me lo ricordo, anche fisicamente stimolante, nel senso che era bello piazzato e dentro di me dice: vedi, almeno questo. Infatti l'avevo preso un po' di punta, se devo essere sincero, inconsciamente l'avevo preso un po' di via. E la prima cosa che ho detto quando ci siamo trovati è stata proprio quella: va bene, siamo qua, cioè sappiate che è una vita che mi preparo perché vi voglio ammazzare tutti uno per uno. È stata la loro reazione che mi ha disarmato. Loro hanno accolto questa mia rabbia. Invece io ero abituato alle dinamiche normali di strada, no? Di quartiere. Ti provoco, tu mi rispondi, io ti salto addosso e finisci in rissa. Non è difficile. Al massimo ti provoco 2 o 3 volte se proprio hai bisogno di stimoli, ma la risposta non è mai abbassare la testa. E invece in quell'incontro loro hanno cambiato le regole del gioco che conoscevo e mi hanno aperto le braccia. Io che ero abituato a tutt'altra dinamica, mi sono ritrovato disarmato. È come se mi avessero levato la terra da sotto i piedi in quel momento. Però è stata anche una bella sensazione. È stato veramente lungo il percorso che ha portato Giorgio Bazzega fino a qua. Se non l'avete letto o se non l'avete ascoltato tutto quanto, potete farlo ripassando attraverso i nostri podcast. Oppure, ad esempio, se avete perso alcune puntate di questa settimana, potete ascoltarvele domani sera alle 21.30 qui a Radio 24 nel nostro speciale Linee d'Ombra dedicato proprio a tutta la nostra storia seriale. Abbiamo ancora una settimana di racconto di Giorgio e poi purtroppo dovremo salutarlo e ci lascerà. Come dire, siamo arrivati al punto zero della sua storia, siamo arrivati a oggi, quindi non avrà più molto da raccontare, ma non smetteremo mai di ringraziarlo. Godetevi il vostro weekend, scriveteci delle storie, mandateci la linea d'ombra @radio24.it. Ora la linea al GR, torniamo lunedì per raccontare storie, che è il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!